A bordo campo di Dario Ricci. Il via oggi da Mar della Plata ed è per questo che introduciamo questa puntata di A Bordo Campo con uno splendido tango. L'arrivo a Lima in Perù dopo 8.737 chilometri. Beh, lo avete già capito, stiamo parlando della Dakar 2012, il rally più spettacolare, emozionante, pericoloso, per alcuni aspetti anche drammatico del mondo, che quest'anno attraverserà, come ormai da qualche edizione accade, il Sud America, Argentina, Cile e Perù. Per la prima volta il Perù protagonista di questo tracciato, e c'è chi questo tracciato se lo farà in panda, vero Alex Caffi? Benvenuto a Radio 24 e A Bordo Campo. Ciao a tutti quanti. Sì, è vero, farò esattamente un'impresa nell'impresa, come l'ho definita io, perché già fare una Dakar presumo sia, io per me la primissima, premetto. Già fare una Dakar è un'impresa titanica, farla poi con una minuscolissima panda direi che è ancora qualcosa in più di quello che andiamo cercando. Comunque sono molto, veramente molto felice di questa avventura, perché di tale si tratta, non la reputo una gara per me, ma veramente una grande avventura. E lo sarà indubbiamente sotto tutti gli aspetti. Beh, poi tra l'altro per Alex è un'avventura nuova dopo aver guidato in Formula 1, ricordiamo degli ottimi piazzamenti, tra cui un quarto posto nel Gran Premio di Monaco dell'89, insomma chi di solito va a punti a Monaco non lo fa mai per caso. Poi grandi esperienze importanti nelle varie categorie di guida americane, e poi ora l'esperienza della Dakar. Beh, Alex, prima Dakar, come ci si prepara a una sfida del genere? Ma io, tra l'altro, è anche un po' particolare per me, perché comunque sia 6 mesi fa circa, ovvero a luglio, ho avuto un incidente, forse uno dei più gravi della mia carriera, a causa di un malfunzionamento in freni. Sono uscito ad Imola alla prima curva della rivazza, andandomi a schiantare contro le protezioni, subendo fra l'altro la frattura della 12ª vertebra dorsale. Ho fatto una preparazione, un recupero, oltre che una preparazione, ho avuto l'opportunità comunque quest'anno di avere questa offerta di fare questa grandissima gara, che è appunto la Dakar, e non volevo comunque sia rinunciarci, perché era il sogno un po' da bambino, da quando mi ricordo agli esordi, agli inizi delle primissime Parigi-Dakar, quelle fatte in Africa. Io le seguivo da ragazzino, come immagino tutti quanti gli altri appassionati di quell'epoca, e per me è sempre stato un po' un mito, al di là che poi abbia preso un'altra via, vedi appunto Formula 1 e quant'altro, però mi è sempre rimasta questa gara nel cuore, così, una gara che comunque rappresenta, appunto, come ho appunto detto prima, una sfida, un'avventura con se stessi prima che con gli altri. La preparazione comunque si basa chiaramente su una grande preparazione fisica. Io ho detto non a caso che sono circa 20 anni circa che non mi preparavo talmente bene per una gara, appunto, dei tempi della Formula 1, quindi presumo che dal punto di vista fisico, al di là del punto di domanda schiena, sono molto preparato, insomma. Due gli equipaggi del team Panda Dakar: Caffi Fumagalli, quello di cui appunto stiamo parlando, e poi Calubini De Pretto, quello sul quale saliremo fra pochi minuti, ve lo preannuncio. Ecco, scherzavamo un po' sul fatto di affrontare una Dakar con la Panda, ma quali sono gli adattamenti e gli adeguamenti che una macchina del genere ha subito per affrontare un rally del genere? Ma potete immaginare che chiaramente, come in tutte le vetture da corsa comunque sia, le vetture originali hanno ben poco. La vettura è stata comunque rivista, soprattutto è stata rivista anche dal progetto originale, che era quello ufficiale della Fiat di 2 o 3 anni fa, alla quale prese parte anche Mickey Biesion, campione del mondo rally, quando tentarono le prime sfide alla Dakar, non riuscendo mai tra l'altro a finirle. Abbiamo fatto le modifiche sostanziali sulla vettura, ovvero gomme un po' più alte e soprattutto motore un po' più potente, non più il 1.3 turbo diesel ma il 1.9, quindi chiaramente altra categoria, ma però una vettura adesso potente che dovrebbe, speriamo, incrociamo le dita, consentirci appunto di finire questa gara, quale è appunto il nostro obiettivo. Non andiamo certo né a vittoria né a piazzamenti di nessun tipo, se non esclusivamente a finire e terminare la gara. Ecco, obiettivo Lima, in questo senso quali sono le tappe più pericolose da questo punto di vista, che metteranno più a dura prova la tua pandina? Guarda, io non ne conosco neanche una, quindi sono tutte pericolose alla fine, quindi non saprei dirti, perché per me è un'incognita fino all'ultimo chilometro, non ho la più pallida idea di cosa mi aspetti. Ho visto chiaramente, ho studiato un po' il percorso, vedendo i filmati e parlando un po' con i ragazzi che l'hanno fatto negli anni 10 anni. Comunque, come ben sai, ogni anno cambia, quest'anno addirittura arriveremo in Perù, non si tornerà più in Argentina, quindi è completamente nuovo, non ho veramente la più pallida idea. Ecco perché comunque ho anche questo entusiasmo con me, perché sinceramente, indubbiamente è una grande gara, ma una grande sfida, come ho detto prima. Eh sì, grandi luoghi della civiltà incaica andrete ad attraversare, oltre alle Ande, mi vengono in mente le città di Arequipa, Nazca, le famose linee di Nazca, poi Pisco e poi l'arrivo a Lima, solo per fare riferimento a quanto attraverserete in territorio peruviano. Che cosa ti fa più paura della Dakar? Ce lo raccontavi, no? Lo ricordiamo, le edizioni africane in particolar modo, spesso segnate anche da incidenti tragici. Come si convive con questa paura, Alex? Ma vabbè, guarda, io faccio un mestiere che ci convivo da 30 anni circa, quindi non è lì il grosso problema, nel senso che è una scelta che ho fatto, non ultimo vedi appunto l'incidente che ho subito, voglio dire, come tutti quelli che fanno il mio mestiere accettiamo questo, che questa parte, diciamo, del nostro lavoro, che comunque è anche la parte forse che ci ha affascinato sin da bambini, sin da ragazzi, il fatto di fare uno sport e un lavoro che comunque comporta anche una piccola dose, perché ormai le macchine hanno comunque degli sistemi di sicurezza e anche le gare abbastanza evoluti rispetto al passato. Però è chiaro che, guarda, ti dirò, la cosa che più comunque mi spaventa, al di là di tutto, non è tanto la pericolosità, tanto questa serie di cose, quanto comunque il guidare nella sabbia, perché è comunque una cosa che io non ho mai fatto e non so come sarà, è una cosa abbastanza insolita per me, e ho comunque con me Angelo Fumagalli, grandissimo esperto di ride e di Dakar soprattutto, che mi aiuterà sicuramente, e comunque parto un po', ecco, da novellino e da pivello, quindi con tanta umiltà, tanta voglia di imparare e di divertirmi soprattutto. Quanto è importante, quanto pesa l'affiatamento, il rapporto col proprio navigatore? Oh, beh, io presumo almeno un 200%, se vogliamo dire. Tanto per tenerci bassi. In termini, esatto, per stare un po', come dire, bassi, ma assolutamente, soprattutto per me che sono la prima esperienza, è importante, fondamentale avere un bravissimo navigatore, sia per la navigazione, sia per gli, soprattutto anche dal punto di vista della meccanica. Non dimentichiamo che comunque sia, dobbiamo comunque, abbiamo sì dei camion di assistenza che ci seguiranno, ma comunque sia dobbiamo comunque arrangiarci per quanto riguarderanno i vari guasti che ci possono capitare eventualmente durante la gara, quindi sarà importante essere anche in grado di poter gestire questo fattore, e Angelo lo è, perché io gli ho detto subito: ragazzi, io se c'è da cambiare una gomma forata lo posso fare, di più non chiedetemi di intervenire sui mezzi meccanici, perché ci capisco poco, posso passare tutt'al più le chiavi e i cacciaviti se serve. Beh, quindi ad Angelo il compito anche di portare la chiave inglese in questa spedizione. Infatti è un compito arduo, non so se sa che cosa lo aspetta, no? Comunque è veramente una bravissima persona e un grande esperto. Ecco, Alex Caffi, ti chiedo ancora, ha ancora senso nel 2012 la Dakar? Qual è la natura intima di questa corsa che tu affronti per la prima volta in un mondo dei motori che chiaramente ha poi nella Formula 1, anche nella stessa Formula NASCAR, forse le sue vetrine più prestigiose, e in cui spesso il rally è tutto sommato trascurato dal grande palcoscenico mediatico? Ma per me lo ha nella misura in cui, chiaro, per me è la prima, come ho detto, quindi assolutamente ci tengo tantissimo e mi affascina molto. Lo ha comunque nella misura in cui appunto debba essere vista come una, come era agli inizi, cioè una gara, non una gara ma un'avventura, una sfida con se stessi e poi contro gli altri piloti, perché questo, di questo esclusivamente si tratta. Chiaro che nelle ultime edizioni e soprattutto anche nella nostra o nelle precedenti, i team ufficiali l'hanno fatta da padrone, questo ha un po' snaturato quello che era il vero senso della Dakar, però vediamo che questo accade purtroppo o per fortuna anche in tante altre categorie e in tanti altri campionati. Il fatto di avere i team ufficiali porta sicuramente risonanza da una parte, ma dall'altra toglie comunque spazio a quei privati e a quelle appassionati che comunque partecipano proprio con lo scopo di divertirsi e di comunque fare affrontare un'avventura, una sfida. E quindi direi che comunque sia in un panorama automobilistico mondiale ci sta alla grande una gara come questa. E allora Alex Caffi, in diretta da Mar de la Plata, in bocca al lupo con la tua pandina, appuntamento il 15 gennaio allora a Lima, eh? Assolutamente sì, ci vediamo tutti in Perù. A bordo campo. Ancora Dakar 2012 che scatta proprio oggi da Mar de la Plata ed è la grande protagonista di questa puntata di A Bordo Campo qui su Radio 24. Torniamo a Mar de la Plata perché abbiamo parlato fino a pochi istanti fa con Alex Caffi, uno dei due piloti del team Pandacar. Ebbene, saliamo sull'altra vettura del team delle Panda, quella guidata da Loris Calubini con navigatore Alberto De Pretto. E allora Loris Calubini, benvenuto a bordo campo in diretta dall'Argentina. Grazie, buongiorno a voi. Allora Loris, calda il motore della tua pandina? Caldo il motore, è caldo anche l'ambiente perché ci sono 40 gradi circa. Qua è piena estate, c'è un pubblico che affascina come le vecchie edizioni della Dakar in Sud America. Ecco. Ecco, diciamo pure che a differenza di Alex Caffi, Loris Calubini di Dakar ne ha parecchia di esperienza, perché mentre Alex è un esordiente, Loris è alla quarta Dakar e due delle sue Dakar le ha corse quando il rally ancora si disputava in Africa, in particolare nel 2006-2007. Beh, Loris, inevitabile chiederti le differenze, prima di tutto sotto il profilo dell'atmosfera, questa formula che ha portato un po' gioco forza, lo ricordiamo, la Dakar in Sud America funziona, secondo te sta funzionando? Come reagisce il pubblico? Qual è l'attenzione che c'è intorno a questo rally lì in Sud America? Guarda, la differenza fondamentale è che i dakariani nel cuore hanno sempre l'Africa. La differenza fondamentale sta proprio, come dicevi te poc'anzi, è il discorso del pubblico. In Africa corri in ambienti molto estesi, ma ovviamente privi di popolazione. In Sud America invece il pubblico si fa proprio sentire, ci sono circa 5 milioni di persone alla partenza, c'è una folla che è una cosa esagerata, il calore lo senti proprio, bandiere dappertutto, suonano, trovi la gente in mezzo ai monti, in mezzo ai prati, cioè è veramente affascinantissimo sotto il punto di vista del pubblico. E io dubito che l'organizzazione la sposti a brevissimo termine questa manifestazione da questo posto, perché veramente il riscontro pubblicitario che hanno è veramente altissimo. Toglimi una curiosità, arriverete anche in Perù sulle Ande, abbiamo detto Lima, Pisco, Arequipa, quindi ben oltre 2000 metri, siete in qualche modo allenati specificamente anche per far fronte ai problemi derivanti dall'altitudine? Beh, io la preparazione fisica devi averla per forza alla base di tutto, perché le quote sono ben più alte di quelle che hai appena detto. L'anno scorso abbiamo passato 5100 metri, quest'anno facciamo 5000 e sfioriamo i 5100 su un passaggio, non ovviamente in prova speciale, però l'anno scorso e anche quest'anno correremo con le macchine a 3400 metri, pertanto non solo lo sforzo fisico ma anche i mezzi vengono sottoposti a un ottimo stress, perché a 3400 metri l'aria è completamente diversa e effettivamente si affatica il tutto, equipaggio e mezzi. È per questo, insomma, che come sentite in sottofondo abbiamo scelto questa musica andina per accompagnare questa parte della nostra intervista, perché le Ande saranno il vostro pane quotidiano, così come il deserto. Ci confessava Alex Caffi che è molto preoccupato del fatto di dover guidare per la prima volta sulla sabbia. Tu, che hai conosciuto anche la sabbia africana, dagli qualche consiglio, mi raccomando. Ma io con Alex ci siamo già accordati, lui avrà tantissimo da insegnare a me perché lui ha molta più esperienza di me, io però ho da dare a lui quello che a lui manca, cioè l'esperienza della Dakar, che è una gara lunghissima e durissima, pertanto questo interscambio di concezioni ci verrà buono ad ambedue, ecco. Lui ovviamente teme un po' la sabbia perché non avendola mai fatta, giustamente la teme un attimino. Io della sabbia non ho paura, tra virgolette, perché di sabbia ne ho masticata tanta, ma veramente tanta, anche in Africa. Conosco già una parte di questa qua del Sud America, non conosco ovviamente quella del Perù, perché è la prima volta che si corre in Perù questa edizione, pertanto non conosco la sabbia del Perù. Però corriamo a bassa quota, dunque sostengo che non sia poi così distante dalla sabbia africana. Ecco, immagino che nelle Dakar che hai fatto, sia in Africa che in Sud America, ci siano anche tante immagini relative non solo alla gara ma a tutto il contorno che c'è intorno alla Dakar. Ecco, qual è l'immagine appunto che ti rimane più viva nella memoria quando pensi alle tue Dakar? Guarda, di immagini sono sincero, quando corri l'unica cosa che guardi è dove devi mettere le ruote, perché alle velocità che si viaggia hai una tensione, un'attenzione tale, pertanto il territorio fai fatica veramente a vederlo. Ogni tanto si alza lo sguardo sui pezzetti di rettilineo dove puoi un attimino deconcentrarti e vedi degli scorci di territorio che sono veramente eccezionali, però nel cuore di un dakariano l'immagine che ti resta in mente è sempre il Mali. In Africa il Mali è una cosa che ti colpisce dentro, proprio per la popolazione che rispetto a noi è indietro veramente centinaia di anni. Ritmi stressanti, quelli quasi sovrumani, quelli della Dakar, come si amministrano, come si recuperano le energie? Perché come ci ricordava anche Caffi, voi siete spesso alla bisogna anche i meccanici delle vostre vetture, quindi un guasto meccanico non è solo un problema tecnico ma anche equivale anche a preziose ore di energie, di recupero, di riposo che se ne vanno in fumo. Ecco, tu che hai vissuto già queste esperienze, trucchi e consigli da dare? Guarda, in Dakar qualsiasi piccolo problema è un grandissimo problema sotto il livello fisico, perché solo il forare una ruota, che è una cosa banalissima, però devi fermarti, scendere dalla macchina, ci metti 5 o 6 minuti a cambiare una ruota, però ti interrompe tutto il ritmo, stai lavorando a 40 gradi, devi rientrare, ti deconcentri, si deconcentra il copilota, riparti con l'affanno perché hai bucato e pensi di non aver rotto magari qualcos'altro nella macchina nel forare, dunque hai una serie di preoccupazioni e tutto questo proiettato per 15 giorni, per 800 km o 700 km al giorno, ovviamente ti creano un grandissimo stress psicologico oltre che fisico. Io l'unico consiglio che do è quello che non bisogna partire pensando di fare una competizione o una gara italiana o internazionale, ma devi partire con la concezione che stai correndo 15 giorni in una gara marathon, una gara più lunga al mondo quasi, e devi sfruttare ogni secondo per poter riposare. Pertanto, come tu arrivi al bivacco la sera, la prima cosa in assoluto che devi fare è di andare a mangiare, dai l'input ai meccanici per le riparazioni eventuali che devono fare sulle macchine e poi devi sfruttare il tempo proprio per riposare, se ce la fai dormire. Si dorme molto poco, perché io l'anno scorso nei primi 6 giorni dormivo di media 3 ore e mezza a notte. Veramente i primi sei giorni sono massacranti. Eh beh, insomma, numeri che danno un po' l'idea di cos'è questo rally. Ma esatto. Tema sicurezza, Loris Calubini, com'è cambiata la Dakar? È effettivamente ormai un rally sicuro sotto il profilo dell'incolumità dei piloti per quanto riguarda macchine e percorso, e anche per quanto riguarda l'intera corsa, che lo ricordiamo, proprio in Africa nelle ultime edizioni fu oggetto di aggressioni, atti di terrorismo, insomma, era diventata veramente pericolosa. In Sudafrica, cioè in Africa, il problema del terrorismo ovviamente un attimino c'è sempre stato. Là si corre in zone veramente molto disagiate e ovviamente là la fame è una cosa disastrosa, pertanto loro tutto quello che riescono a fare, tra virgolette, anche rubacchiare, voglio dire, è per loro sopravvivenza. Ovviamente Dakar, spostandosi in Sud America, a livello di sicurezza ha fatto dei grandissimi passi in avanti. Sud America non c'è assolutamente questo tipo di problema per quanto riguarda il terrorismo, e poi l'organizzazione stessa ha fatto dei passi veramente da gigante anche sotto il tipo di sicurezza per i piloti che corrono. Le macchine, le moto e i camion sono attrezzati con dei sistemi sofisticati di controllo della vettura stessa. Se la macchina si ribalta, loro lo vengono a sapere, anche se tu sei privo di conoscenza, ti chiamano, ti possono telefonare in macchina, hai dei pulsanti d'allarme, hai le balise, si solleva l'elicottero in caso di non risposta nell'arco di 5 minuti dalla loro chiamata. Cioè veramente adesso come adesso noi con le auto e con i camion rischiamo veramente poco. Il rischio un attimino superiore al nostro, tra virgolette, per quanto riguarda la persona fisica e per i motociclisti, loro se cadono ovviamente devono fare i conti col terreno, ecco. E allora, Loris Calubini, grazie per essere stato in collegamento con A Bordo Campo da Mar della Plata ed essere stato anche la nostra guida nella Dakar 2012. Allora, Loris, come già detto ad Alex Caffi, per te e per Alberto De Pretto, il tuo copilota, l'appuntamento è fra 2 settimane, sempre qui da Lima, però, dal traguardo. Non mancherò sicuramente. Grazie mille e arrivederci a tutti. Beh, davvero vengono i brividi all'idea di immaginare questa panda che va su e giù per le Ande e attraversa i deserti del Sud America. Davvero un in bocca al lupo a tutti i partecipanti della Dakar 2012. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it, ascoltarci in podcast e poi dialogare con noi attraverso il blog del programma, sempre sul nostro sito web. Appuntamento speciale in settimana, perché A Bordo Campo bissa non solo domenica prossima 8 gennaio, ma prima il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, appuntamento speciale con le nostre storie di sport. Ancora un augurio di buon 2012 e di buona giornata da Dario Ricci.